tutti quanti, benvenuti, ben ritrovate anche il Signore. Con particolare piacere questa sera presentiamo un giovane, Federico Stefanelli, che ha compiuto studi ingegneristici, ha una grande passione per la matematica, ma tuttavia si dedica alla narrativa, alla scrittura, ed è una bella penna. Ci è stato suggerito, anche così fatto conoscere proprio da Alessandra Cistari, che è qui con noi, questa sera ci accompagnerà nella conoscenza, nella lettura e nella presentazione di questo giovane scrittore bolzanino. E quindi con grande piacere, ecco, ritorniamo a portare l'attenzione sulla narrativa e soprattutto a dare voce ai giovani. Questa settimana è una settimana così, insomma, faremo lunedì con questo appuntamento, poi ci sarà un'interruzione con il giovedì di festa, il venerdì di festa. Sabato invece saremo aperti, quindi lo dico per comunicare i nostri ritmi. E invece il prossimo appuntamento lo trovate sulla sedia. Questa biblioteca ha come vocazione, missione in particolare quella di indagare e ricercare il territorio, e quindi siamo anche molto contenti di avere una parte consistente della narrativa. A volte si dice che forse in Alto Adige non ci sono esempi di narrativa, non c'è una vera e propria letteratura. In realtà in questi ultimi 10-15 anni le cose sono notevolmente cambiate. Da una parte c'è chi racconta l'Alto Adige pur abitando magari in altre regioni d'Italia, ma ci sono anche tanti altoatesini che parlano di se stessi o comunque parlano anche dell'Alto Adige. L'abbiamo visto nella memorialistica, ma lo vediamo adesso anche con delle voci più fresche e giovani, come è il caso di Federico Stefanelli. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, cedo subito la parola ai nostri ospiti e vi auguro una piacevole serata. Grazie. Buonasera a tutti, sono Alessandra Cestari. Per chi non mi conosce, velocemente lavoro in provincia, in questo momento l'ufficio traduzioni, mi occupo anche di revisione linguistica. Questo mi preme segnalarlo adesso, prima di presentare Federico, perché quando Federico mi ha fatto sapere che aveva pubblicato un libro, mi è subito nato l'interesse per il soggetto del libro e un po' anche per il suo stile, la sua scrittura. Ed è stata una bellissima sorpresa. Ecco, questo perché per sfatare un luogo comune si pensa all'ingegnere molto, no? Quasi asettico, legato ai conti, ai numeri, lontano dal mondo delle emozioni, quasi della fantasia. E qui invece ho potuto constatare che c'è stata una bellissima sorpresa. Allora, guardiamo un attimo assieme, ecco, Federico, mi permetti, vero? Guardiamo un attimo il logo, che questa è la copertina del libro, Casco in un mondo. Casco in un mondo è stato pubblicato lo scorso anno ed è stato presentato alla Fiera Internazionale del Libro di Milano, esattamente un anno fa, il 29 di ottobre. Ecco, diciamo, che cosa vuol dire, Federico? Cosa significa casco in un mondo? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Casco in un mondo racchiude sostanzialmente due concetti, e quello del cascare in questo mondo imprevisto e casco in quanto oggetto proprio che veicola in questo mondo particolare, e quindi il casco da moto rappresentato anche comunque in copertina per riprodurre questo doppio senso, ecco. Allora, abbiamo un casco. Avevo capito che era un casco. Ecco, si vede, vero? Ecco, ma questo casco, che cos'è in realtà? È un po' il tramite, è il filo rosso conduttore di tutti i capitoli di questo libro, che non è però un libro di viaggi, come si potrebbe pensare, cioè non è il racconto di un viaggio, di un luogo geografico, ma è il racconto di una passione forte che è quella per la moto, per le due ruote. E diciamo che normalmente quando pensiamo ai motociclisti, ci vengono in mente i motociclisti o della B generation. Io ho paura. Ecco, molto spesso ecco, il rombo del motore, questa velocità sfrenata, la trasgressione che quasi si lega, no, all'immagine della moto e del motociclista, fanno un po' tremare e insospettire chi non ha questa confidenza con la moto. Io per esempio non sono una motociclista, però in realtà devo dire che Federico è riuscito a instillarmi l'interesse, a suscitare questo interesse per la moto, perché in realtà lui è riuscito in una cosa che secondo me è fondamentale, trasmettere al lettore o alla lettrice le sensazioni, ecco, descrivere le sensazioni, e questa è sicuramente una grande capacità, una grande abilità. Non è da tutti ovviamente, poi se volete, se avete piacere, vi leggo alcuni passaggi che secondo me sono sicuramente significativi. Diciamo che questa mattina io ho passato un po' il tempo a escludere questo piuttosto che quell'altro, perché dicevo no, mi sembra più significativo questo, mi sembra no, beh, allora meglio questo. Diciamo che ogni capitolo è talmente sottile in certi passaggi, divertente, ha questo ritmo incalzante, coinvolgente, che è difficile trovare un passaggio migliore rispetto a un altro. Però torniamo a Federico. Per chi è questo libro? A chi hai pensato quando hai scritto, quando ti sei messo a scrivere? Come sono nati i tuoi pensieri? Beh, dunque, intanto mi piace dire che queste pagine hanno preso forma in maniera spontanea, mai con l'idea di scrivere veramente un libro. Quindi, se non nel casco, quando poteva venirmi ovviamente l'idea, ma di buttare giù qualche appunto che poi piano piano ha preso forma sotto forma di pagine. L'idea è nata anche qua per due motivi. La prima, perché volevo condividere con tutte le persone che hanno la mia stessa passione questi momenti, queste emozioni, a me piace definirlo questo puzzle di emozioni, sensazioni, avventure che circonda appunto questo mondo sulle due ruote, che nasce con un casco in testa e quindi dai momenti comunque di introspezione, mancanza di qualcuno con cui parlare, quindi la possibilità della mente di volare e esplorare mondi lontani. E dall'altro invece provare a far conoscere a chi non ha mai voluto o non ha mai potuto andare in moto cosa significa non solamente il viaggiare, perché comunque credo che molte persone meglio di me hanno descritto i loro viaggi in moto, ma semplicemente racchiudere quello che si prova con un casco da moto in testa, e quindi provare a coinvolgerli in questo mondo che probabilmente alcuni non hanno mai considerato. Facciamo una prova allora, proviamo. Allora, io partirei dal primo capitolo. Dall'inizio. Che dall'inizio. Diciamo che dall'inizio proprio, allora se vogliamo, è dalla dedica, dedicato a tutti coloro che passano decine di minuti in sella al loro veicolo a due ruote. Presupposto necessario, indossare un casco integrale. Se non lo avete ancora mai fatto, questo libro potrebbe essere un buon incoraggiamento a farlo. Quindi non un casco normale, ma un casco integrale. Poi dopo ci spiegherà perché, cosa significa casco integrale. In ogni caso, primo capitolo, ci sono cascato. quando poteva nascere l'idea di scrivere questo libro se non in uno dei tanti momenti passati con la testa rinchiusa nel mio casco? Avevo già meditato molte volte su questa cosa, non al fatto di scrivere un libro, che peraltro definirei più una sorta di diario, ma al fatto di, scusate il gioco di parole, pensare a quanto penso. Dopo numerose considerazioni sono arrivato alla conclusione che non vi sia luogo, o dovrei dire condizione migliore per riflettere, se non con il cervello incastrato in un casco da moto. Presupposto necessario il fatto che sia integrale, altrimenti si perde tutta quella sensazione ovattata che un casco semi-integrale o jack non è proprio in grado di garantire. Inoltre, assolutamente fondamentale risulta il paramento, non tanto per l'indiscussa protezione che offre al mento in caso di caduta, non sono intenzionato a tormentarvi con la questione della sicurezza, ma piuttosto perché tutela la possibile lettura del labiale da parte di tutta quella gente che, come me, si trova a litigare nel traffico cittadino. Ora prego chiunque di non abbandonare il libro sul divano e di andare ad infilarsi un casco in testa, perché non funziona. Indossare il casco, per usare una splendida frase da matematici, frase che a me è sempre molto piaciuta, è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ingresso in questo mondo parallelo. Serve una velocità, un moto, in concreto una moto, un motorino che sia, insomma, già, perché il fatto di spostarsi, soprattutto percorrendo sempre quella monotona e ormai telecomandata strada per andare al lavoro, a scuola o in palestra, costruisce intorno a noi quel contesto di isolamento dal mondo e di introspezione che difficilmente troviamo in altre situazioni. Ecco, Federico, allora, questo casco serve a far emergere pensieri, considerazioni? L'avrei mai pensato. Sì, esatto. Diciamo, ho voluto calcare un po' su questo casco integrale perché veramente ci chiude con la nostra testa letteralmente in questo mondo blindato, quasi vorrei dire. E dopodiché, comunque, al di là del viaggio, dell'avventura, nell'esplorare anche nazioni o regioni diverse, spesso e volentieri la strada a casa lavoro, che è sempre la stessa, in cui veramente ormai si percorre senza nemmeno accorgersi, porta comunque a potersi distrarre un attimino e cogliere quello che sono le cose che succedono intorno a noi. Cosa che secondo me in macchina di fatto non avviene, perché c'è la radio, c'è la musica, magari c'è un'altra persona con cui stiamo parlando, o comunque l'ambiente di per sé è già più spazioso, no? E quindi non lascia veramente questo spazio per noi stessi e basta. Dopodiché ogni cosa viene bene, nel senso che cartelloni per strada, persone, la gente che si muove, tutto insomma porta alla nascere di qualcosa che fa volare la mente, ecco. Quando è nata esattamente questa passione? C'è stato un momento che ricordi con particolare intensità, cioè quello che ti ha fatto scattare realmente la passione? Ma dunque, credo che la moto di per sé per ogni bambino sia un po' l'oggetto che è la chiave del mondo degli adulti, forse ancora di più delle macchine. Però di fatto è nata comunque grazie a mio papà, che anche lui ha la passione della moto. In vacanza si andava spesso in moto, o comunque se non si andava si affittava nei luoghi di vacanza. Dopodiché lui, dopo tanti anni, avendola posseduta da giovane, ha deciso di ricomprarla, e quindi per me una mattina un casco appoggiato sul tavolo del soggiorno col fascino che emanava di questa vernice splendida e brillante, diciamo che è stato un po' il veicolo, ecco, che mi ha portato a scoprire veramente questo mondo. Allora lo leggiamo, ecco, perché me l'avevo segnata, era bellissimo questo passaggio. Ecco, questo per far capire come il fascino della moto, il fascino è cominciato da piccolo e poi è cresciuto, poi lo vediamo, no, nel tempo, come ha preso forma diversa, no? Come si è allargato, come è diventato più sicuro. È un estratto questo di un capitolo. La prima volta che indossai un casco da moto avevo poco più di 7 anni. Papà aveva comprato la moto dopo numerosi anni passati a ricordare con nostalgia quella che aveva posseduto negli anni 70. Era un sabato mattina, mi ero alzato da poco e giravo ancora per casa con il mio accappatoio azzurro. La moto nuova del papà non si era ancora vista. Sul tavolo in soggiorno, colpita dalla luce che filtrava attraverso le finestre, brillava la vernice lucida di un casco. Sfondo bianco con grafiche sofisticate rosse, blu e gialle che sfumavano sui lati. Sul retro una striscia a scacchi neri, proprio a ricordare la bandiera utilizzata nelle competizioni sportive per decretare l'arrivo dei piloti. Non ho potuto fare a meno di infilarmelo in testa. Quasi barcollante a causa del notevole peso, mi sono presentato davanti alla mamma, la quale non ha potuto fare a meno di mettersi a ridere, correndo a tirare fuori la macchina fotografica. Nell'album c'è ancora una mia foto. In realtà in moto ci ero già stato, ma era sempre accaduto nelle splendide isole della Grecia, dove i miei genitori amavano andare in ferie quando avevo pochi anni. E perciò, come potrete intuire, di caschi da moto nemmeno l'ombra. Fin da piccolo ero assolutamente convinto che il mio futuro avrebbe previsto una moto. Come ogni ragazzino ho rincorso il motorino una volta compiuti 14 anni, motorino che ho avuto il piacere di ricevere poi verso i 16 grazie ai miei genitori. Ecco, quindi qui vediamo che è una prima grande conquista, no? che si concretizza finalmente nell'età dei 16 anni. Com'era il tuo primo motorino? Ma in realtà ho sempre ricercato qualcosa che gli altri non avessero, e quindi anche il mio primo motorino è stato un motorino che avevano veramente in pochi. È stato tutto un percorso, perché ovviamente iniziando a poterlo comunque già guidare a 14 anni, ma non avendolo, la ricerca è diventata veramente particolareggiata, e quindi ho potuto prendere in analisi qualsiasi tipo di motorino con tutti i pro e i contro. Nel frattempo, quando io avevo quell'età, era nata la moda dello scooter, mentre la generazione dei miei genitori hanno vissuto col ciao, da noi ha preso piede, insomma, questa moda di questi motorini carenati. E quindi con grande accuratezza ho scelto poi il mio scooter, sostanzialmente. Ecco, si parla di moto, si parla di scooter, si parla di voglia di evasione. La velocità, che è un elemento fondamentale per andare in moto, piuttosto la prudenza. Come ti rapporti rispetto a questo senso di libertà che porta ovviamente con sé la moto? Ma mi piace dire che la velocità non ha nessun tipo di influenza in questo mondo, nel senso che si può andare piano, si può andare veloce, è normale, si affretta, quindi si accelera, piuttosto che ci si vuole godere un po' più il momento, il viaggio in sé, quindi si rallenta. Ma non è importante, ecco, questo mi preme dirlo, e soprattutto comunque non ho voluto in nessun modo fare riferimenti a sì, racconto di qualche episodio spiacevole, ma più per delineare i contorni di questo contesto. Non è assolutamente mia intenzione parlare di sicurezza piuttosto che di queste cose, visto che comunque sono cose per cui veniamo sensibilizzati già troppo nel sociale. Quindi per concludere, quindi nessun riferimento a velocità medie piuttosto che elevate, l'importante è appunto è muoversi con un casco in testa. Ecco, muoversi con un casco in testa e ritrovarsi in un mondo alternativo a quello delle macchine, un mondo fatto di gestualità, ovviamente, no? Perché ci sono, ecco, per esempio, cosa che io non sapevo, ci sono tutta una serie di gesti, di convenzioni che si scambiano i centauri, credo solo sulle moto grosse, vero? Non motorini, no, giusto da sapere, perché non sia mai che magari per strada comincio a fare anch'io qualche segno, ecco, e vengo. Ecco. È motociclista? No, non sono, è per questo che mi ha colpito il libro di Federico, proprio perché mi ha fatto nascere la curiosità, no, di andare in moto, cioè proprio perché è riuscito a descrivere proprio le sensazioni che avverte chi va in moto. Ovviamente noi, tutti coloro che guidano la macchina ovviamente sono protetti dall'abitacolo, quindi caldo, freddo, pioggia, no? Neve, ecco, tutto questo non va ad incidere più di tanto, vabbè, siamo protetti nell'abitacolo. Il motociclista, ci racconta bene Federico, ecco, queste cose le vive direttamente sulla propria pelle. Parli di temperature artiche, sì. Ecco, aspetta che mi ero segnata perché era proprio carina, proprio temperature artiche, e poi cosa ancora? Pioggia, caldo, freddo, insomma tutto quello che in macchina non si percepisce, perché ormai chi si mette in viaggio senza condizionatore d'estate, una volta era normale, ma adesso non lo fa più nessuno. E ovviamente siamo succubi del meteo sostanzialmente, però disponibilissimi ad affrontarlo, e questa è la cosa un po' carina secondo me, quindi con tutte le tecnologie del caso, però comunque disponibili a farlo, perché risparmiamo un sacco di tempo, troviamo subito parcheggio, si svicola nel traffico, quindi è tutto più semplice rispetto a prendere la macchina, e soprattutto ci si può godere il percorso casa lavoro, per quanto possa essere una cosa improbabile o che gli automobilisti non considerano, però ci sono dei giochi da fare, come descrivo, ci sono dei momenti divertenti, e se vogliamo trovo anche sempre un po' questa sensazione di vacanza nel muovermi sulle due ruote. Ecco, quindi muoversi in città può diventare estremamente interessante. Io avevo scelto un altro così capitolo che si intitola Che rottura di valvole, per far comprendere come non è soltanto, diciamo, un libro questo che non è un diario vero e proprio, o comunque non è una autobiografia, ma racconta anche quello che può succedere, e anche con una certa ironia. Gli astrologi in questi casi dicono che si ha Saturno contro. Sono quei periodi di sfortuna a catena da cui è impossibile sottrarsi, se non aspettando con pazienza che la situazione evolva spontaneamente, un po' come si aspetta che la tramontana prenda il posto del fastidioso vento di scirocco. Ti ritrovi più volte a chiederti se qualcuno ti abbia mandato qualche maledizione, e nel contempo il tuo atteggiamento verso gli accadimenti giornalieri muta, perché incominci a stupirti se qualcosa funziona o fila dritto, mentre solitamente ti arrabbieresti se un evento va per il verso sbagliato, o peggio, se qualcosa si rompe. Questo pacchetto all inclusive è proprio ciò che mi è stato consegnato un po' di tempo fa. Il tutto è partito un sabato sera, quando la macchina ha deciso di lasciarmi a piedi a più di 30 km da casa. tratto in salvo da un amico che gentilmente mi ha raggiunto con le pinze, poche ore dopo sono riuscito a centrare in pieno una notevole buca nell'asfalto mimetizzata da una pozza d'acqua, danneggiando il cerchione e perdendo la coppa copriruota di plastica. Considerando che tutto questo è accaduto nell'arco di una serata, direi che come inizio non è male. Il giorno seguente, la sfortuna ha deciso di colpirmi direttamente, regalandomi una distrazione alla spalla mentre praticavo attività sportiva. Come contorno, anche il sistema operativo del mio computer di casa si è preso il lusso di scioperare. L'ha fatto con la simpaticissima schermata blu piena di scritte a bassa risoluzione, che non ha altro scopo se non quello di farti comprendere che non c'è più niente da fare. Game over. Fortunatamente, poco più di un mese prima, quasi a presagio della cosa, mi ero attrezzato con un disco fisso esterno su cui periodicamente salvo i dati, fra i quali, fortunatamente, anche queste pagine. Ero abbastanza convinto di avere collezionato già un buon numero di imprevisti, ma non avevo ancora considerato che il contesto due ruote doveva ancora essere colpito. Qualche giorno più tardi, la maledizione si è abbattuta in tutta la sua potenza sullo scenario a me più caro. Gironzolavo tranquillamente con il mio scooter di sabato pomeriggio, percorrendo una via pavimentata con i classici cubetti di porfido che ricoprono gran parte del centro storico della mia città. Improvvisamente il parabrezza ha iniziato a cedere davanti ai miei occhi, prima qualche oscillazione, poi l'inesorabile caduta in avanti, agevolata dalla mia frenata nel disperato tentativo di porre fine a quella scena straziante. Avrei tanto voluto avere quattro mani in quel momento, due per frenare e altre due per tenere il parabrezza. Nel giro di qualche secondo, il grande scudo di plexiglass finisce a terra, in mezzo alla strada. Mi butto sulla destra, salto giù dal motorino, lo tiro sul cavalletto il più in fretta possibile, mi giro e crack! Quel rumore non lasciava nessun dubbio, spezzato in quattro miseri resti, nemmeno il tempo di tentare di fermare la macchina che sopraggiungeva. Classica scena da cartone animato, io con la bocca spalancata e il mento che tocca a terra. Dopo aver chiarito con il guidatore dell'auto che era sopraggiunto, raccolgo quel che rimane del mio parabrezza, butto tutto nel primo cassonetto e proseguo, depresso, per la mia strada. Avverto già quella sgradevole sensazione data dall'aria fredda che filtra dal collo nel casco. Diciamo che nonostante questa esperienza, tu continui ad andare in moto. Ecco, no, il freddo, il caldo, questi sono inconvenienti che però fanno parte del gioco e quindi... Certo, assolutamente, il parabrezza si ricompra e si riparte, insomma, sostanzialmente nulla mi ferma ormai. Ho conosciuto caldo, freddo, pioggia e tutto quanto, quindi... No, rimango ancora convinto che vale la pena di esplorare questo mondo, pur appunto affrontando intemperie e avanti. Ecco, tu dicevi che non hai voluto dedicare l'attenzione all'aspetto della sicurezza, anche se in realtà si nota che tu non sei un motociclista che punta alle sensazioni estreme, no? Quindi alla velocità spericolata. Quello che mi era parso simpatico e sicuramente chiarisce un po' quello che è la tua anima, no? Il tuo andare per strada, è l'ultima pagina dove dici, richiami una frase celebre, casco ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. E questa è una citazione per poi concludere di lì a poco ciò che tengo a dirvi, quindi questo è rivolto a tutti coloro che usano la moto, il motorino, Se non indossi il casco, oltre alla tua sicurezza, perdi anche questo splendido mondo. Ecco, quindi diciamo che ci appare una persona che oltre ad essere molto attenta a quello che succede attorno, quindi a prestare la massima attenzione alle dinamiche del traffico, no? alla routine quotidiana, tra l'altro per chi avesse anche interesse di approfondire un po' la lettura di questo libro, è interessante vedere la descrizione che ne dà Federico di quelli che sono gli autisti, gli automobilisti, come li descrive da motociclista, ecco, con un tono così ironico, citando anche qualche aneddoto simpatico, qualche abitudine, ecco, che probabilmente gli automobilisti non sanno neppure di avere o che venga, che questa abitudine venga percepita dall'esterno. Quindi diciamo un motociclista molto attento. Ecco, una domanda, ci sono delle domande, qualche... Posso citare Montale? Prego. Li guardiamo noi della razza di chi rimane a terra. Bella. Ecco. Quindi, Federico, tu vogliamo leggere qualcos'altro? Un passaggio? È differente. Mi interessa sapere qual è il linguaggio convenzionale dei motociclisti. Sì, c'è da fare una premessa, nel senso che io racconto questo mondo dal punto di vista dello scooterista cittadino e del motociclista su strade extraurbane, se vogliamo. Tuttavia, di solito il motociclista vero disprezza un po', insomma, chi si muove sugli scooter o quant'altro. Però a me piaceva invece raccogliere non tanto questa diversità, quanto appunto quello che accomuna entrambi. E quindi c'è tutto un codice, ma innanzitutto quando si va in moto o in giro per i passi o per le strade ci si saluta sempre. E cosa che ovviamente non si fa se si incontra uno scooter, anzi, e c'è tutta una serie di, cioè una sorta di codice per salutarsi in situazioni che magari non lo consentono, quindi se si sta cambiando marcia si saluta col piede invece che con la mano, c'è tutta anche una segnaletica per avvisarsi cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, arriva qualcuno piuttosto che... E quindi c'è un po' un vocabolario così... Ma anche gestarci, speriamo di no. No, gestarci. Assolutamente vietati. Ecco, dove si svolge, diciamo, dove è ambientato questo tuo diario? Ma questo diario si svolge... diciamo per le parti in cui ho descritto bene o male le vie o la città, sempre comunque in forma anonima, perché non volevo limitare il libro alla lettura di qualcuno che vivesse sostanzialmente solo nella mia città, però appunto si svolge nelle vie cittadine. Una buona parte poi legata alle mie gite in moto in giro per la regione o anche al di fuori della regione, e poi c'è tutta una parte che è in realtà slegata sia dalle strade che dal mondo cittadino e che è prettamente legata a questo casco in testa, insomma. Diciamo che il casco è elemento fondamentale che ti porta in questo mondo. Un tempo che il casco non c'era, e le sensazioni potevano essere le stesse, tu che sicuramente le vivi attraverso la visiera, no? Trasparente, ma un tempo il casco non veniva usato. Si mangiavano le mele. Chi vespa mangia le mele. Ma sì, sicuramente ci sarà stato una sensazione di libertà maggiore, forse, no? Capelli al vento e quant'altro. Però si perdeva tutto quello che in realtà da soli si può fare in un casco, come cantare, come urlare, insomma tutte cose, imprecare contro gli automobilisti, cosa che senza casco in testa probabilmente non ci saremmo fidati a fare, insomma. Quindi diciamo la trasgressione. Il casco rappresenta un po' l'alter ego del pensatoio di un tempo, e però anche consente la trasgressione, giusto? Sì, giusto, magari non la chiamerei trasgressione, ma più che altro uno sfogo, ecco, se vuoi, uno sfogo positivo di quello che ci teniamo dentro di solito. Allora, io ho un ultimo passaggio che mi aveva chiesto anche Federico di leggere, ed era dal capitolo Compressione ed Espansione. Ecco, quindi ovviamente da buon tecnico, ecco, utilizza, cioè, tutta la parte introduttiva molto sulla meccanica, e quindi lo tralasciamo in questo momento. Se qualcuno ha interesse, chiaramente lo legge. Anche per non addetti ai lavori. Anche per non addetti ai lavori, ecco. Allora. E qui appunto capiamo quando nasce, quando si riaccende la passione, no? per il moto, per il viaggio, per la vacanza. Le prime giornate di primavera, intrise di quel tiepido sole che la sera tarda sempre più a tramontare, il cielo che si carica di quell'azzurro intenso, il calore del termoscudo che inizia a dare fastidio sulle gambe. Sono solo alcuni aspetti che, come tanti altri, contribuiscono a rendere il nostro girovagare in scooter per la città un momento di relax e spensieratezza, quasi a coincidere con una piacevole sensazione di vacanza. Vengono in mente tante belle cose da fare con l'avvento della bella stagione: le uscite serali con gli amici, il mare. Improvvisamente la mente si estranea e i pensieri positivi prendono il volo. No! Domani ho appuntamento dal dentista e devo pure ricordarmi di pagare l'assicurazione. Ed ecco che all'improvviso ripiombiamo senza sconti nella realtà, con la solita serie infinita di impegni di studio, di lavoro e le scocciature quotidiane che ne conseguono. Compressione ed espansione. O più correttamente, al contrario di ciò che accade negli stessi istanti nel motore del nostro compagno di viaggio a due ruote, espansione e compressione. L'analogia di queste due definizioni con le sensazioni che dilagano nella mente rinchiusa all'interno del casco è semplicemente sorprendente. L'espansione positiva delle emozioni piacevoli, la compressione negativa di quegli istinti di libertà e spensieratezza dettata dagli impegni e dalle preoccupazioni giornaliere. Ma nello stesso istante in cui mi sono ritrovato a considerare questa similitudine, e mi sembra inutile specificare quando ciò è avvenuto, perché ormai ritengo che la risposta sia scontata, mi è subito venuta alla mente un'altra interpretazione. Da un lato, l'espansione dei pensieri che si rincorrono l'un l'altro, come quando tentiamo di estrarre una piuma che spunta dalla trama del piumino e continuamente se ne ripresenta un'altra. Dall'altra, di nuovo, la compressione degli stessi causata dall'attenzione che richiede la guida durante i nostri spostamenti nel traffico cittadino. Nel susseguirsi di idee, mi sono sorpreso nuovamente quando mi sono reso conto che questa analogia porta con sé anche il principio di funzionamento del motore. La compressione risulta forzata e passiva, proprio come sono una forzatura gli impegni a cui dobbiamo rispondere, mentre la fase di espansione è libera e attiva, esattamente come la nostra mente quando si lascia trascinare fuori dal nostro casco alla ricerca di un angolo di mondo tranquillo e silenzioso, dove potersi dedicare ai pensieri che più ci piacciono. Ecco. Direi che ci sono una considerazione da fare proprio, è proprio un libro per tutti, nel senso che non è solo per addetti ai lavori, come ha detto anche Federico, ma proprio per tutti, per i ragazzi, i giovani che probabilmente si riconoscono in queste sensazioni, ma anche chi, e probabilmente ce ne sono tra di voi, ha cavalcato una moto in anni andati, in anni più verdi, no, della vita. E per quelli che vorranno fare questa esperienza, ai giovani, potrebbe sicuramente essere un manuale interessante, no? Una guida interessante su come comportarsi, no? E cosa, invece di lanciarsi in maniera sfrenata nella velocità, alla ricerca di mete lontane solo per il gusto della corsa e dell'ascolto del motore, ecco, provare a guardarsi un po' attorno. E Federico sicuramente da, no? Può insegnare questo. Per concludere, per non rubare troppo tempo, ho trovato nel sito della casa editrice La Caravella un commento, probabilmente a caldo, che risale allo scorso anno, di una certa signora Amalia, che scrive: un libro fresco, vivace, soprattutto giovane come l'autore. Si legge con piacere, accompagnati dalla sensazione di cavalcare anche noi un mezzo a due ruote. Durante il viaggio si partecipa, si sorride, si immagina e si sogna di avere ancora 20 anni. Come ho detto, l'autore è giovane, ma non per questo acerbo nella scrittura, anzi dimostra di essere una bellissima penna. Bravo Federico, mi raccomando, continua a scrivere pensieri nati dentro il casco. E questo è anche l'augurio che facciamo. Buona fortuna, aspettiamo il casco. Vediamo, volevi... Ma una piccola, visto che siamo in termini di commenti, uno dei commenti più piacevoli che ho ricevuto è stato un mio compagno che una sera mi ha scritto un messaggio sul telefonino e mi ha detto: ma Fede, sono tornato a casa, volevo iniziare a leggere il libro, l'ho finito, e complimenti da un automobilista convinto. Quindi questo è stato un po' quello che speravo, cioè di non limitare il libro a chi come me condivide questa passione, ma insomma farci dare la possibilità anche agli altri di conoscere un po' questo mondo. Grazie. Se ci sono domande, qualcuno vuole... Ma io pensavo, perché solo il casco, visto che c'è stata un'evoluzione anche sull'abbigliamento, che ti trasforma notevolmente rispetto alle uscite di qualche anno fa? Sì, certamente, infatti ne parlo all'interno del libro, no? Tutta l'evoluzione dei materiali, dell'abbigliamento, però sostanzialmente il mondo nasce da qui e quindi è quello l'importante, no? E poi ovviamente si trascina tutto il contesto, però la cosa importante era questa qua. Se fosse una canzone sarebbe quella di Luna Pop. Si avvicina bene. La Vespa Special. Sì. Bello. C'è qualche domanda? Ma io vi ringrazio perché è stata una serata frizzante, fresca, grazie a Federico, grazie a Alessandra che è una collega appunto della provincia di averci invitato in questa serata, nella conoscenza di nostri conterranei giovani autori, anche se non ci sono i riferimenti alla terra, però siamo contenti di sapere che ci sono sempre nuovi fermenti. E complimenti, in bocca al lupo allora Federico. Chi avesse intenzione, ci sono alcune copie qui in vendita e il prezzo credo sia 10 euro. Ecco, giusto? Ok. Grazie intanto, buona serata a tutti. Io da parte mia ringrazio voi per il tempo e ringrazio anche l'opportunità avuta dalla biblioteca per avermi ospitato.